buona serata, Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia per 451 frammenti sonori. Buona serata, poi, che si può trasformare tranquillamente in buona nottata, forse per certi versi anche più adatto, e anche buon pomeriggio o buona mattinata per chi ci ascolta sul blog, su 451frammentisonori.noblogs.org. E anche questa sera, insomma, insieme, o questa notte, ma insomma da queste parti si tira sempre tardi, quindi si fa molta fatica a comprendere quando finisce la sera e quando inizia la notte. Comunque, insomma, ci attestiamo sull'ordinarietà e diciamo che appunto è iniziata la notte. 451 porrà delle estrapolazioni, forse anche delle estrazioni jazzistiche, jazzofile, che non significano, insomma, per forza andare dentro quello che è considerato il genere, anche se poi è molto molto limitativa come discorso legato al jazz. È un linguaggio, uno dei linguaggi anzi preponderanti del Novecento, non soltanto per la black music chiaramente, ma per tutte le innervature che ha avuto dentro il rock, dentro il pop, veramente dentro tutte le musiche, poi, che è riuscito di fatto ad attraversare tutte poi quelle del Novecento, se pensiamo anche a molte elettroniche che hanno filtrato con il jazz, o addirittura sono partite proprio dal linguaggio free del jazz. In effetti questa sera è un po' questo il gioco, questa sera, questa notte, è quello di andare a trovare quegli artisti che fanno un'operazione, sì, di estrapolazione, ovviamente non è così matematica, non è così scientifica, forse per alcuni pure, ma non è questo l'importante, insomma, di questo viaggio dentro queste estrapolazioni jazz di 451, ma l'importante, insomma, è come questo suono, questa attitudine, potremmo anche dire free, legata alla musica, quindi legata al jazz. Il jazz parte come musica improvvisativa, nasce di fatto come musica che mischia mondi veramente separatissimi fino a quel momento, musicali, dalla musica creola e alle musiche blues, passando, insomma, per quei vagheggiamenti africani, cioè veramente di tutto di più. Se poi pensiamo appunto alle musiche creole, a che veramente crocevia di linguaggi ha dato il via, ma poi di fatto, insomma, è sempre stato questo il carattere di buona parte, insomma, delle musiche nate con questo impeto, diciamo, di attraversare il tempo, quindi di avere questa sorta di navigazione, quindi che viene di fatto fatta attraverso le musiche del mondo. Nasce così il jazz in primo luogo, è musica globale, e queste estrapolazioni quindi hanno varie caratterizzazioni. Se partiamo da Mike Cooper, probabilmente andiamo a trovare l'estrapolazione jazz più legata magari al blues, al blues jazz, al blues delle origini, quindi chiaramente, insomma, dentro il linguaggio afroamericano di quegli anni, quindi del jazz che muoveva, insomma, i primi passi. Stiamo parlando, insomma, tra la fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Mike Cooper inglese, però dentro quel fenomeno che per tanti aspetti, insomma, è stato foriero così di grandi talenti, ma peraltro è stato anche piuttosto così ripetitivo. Però se pensiamo insomma che il British Blues, il British Revival Blues fu un movimento di fatto che fece uscire tanta psichedelia e come tanto, tanto linguaggio del rock pop che poi diventerà, se pensiamo insomma alle varie figure di Clapton, oppure al grande rivoluzionamento del rock attuato da personaggi che si chiamavano Mick Jagger o ancora meglio Jimmy Page, insomma è una faccenda che ha coinvolto parecchie attitudini poi dentro un modo di intendere il blues bianco, che poi bianco non era, visto che sono stati anche grandi filologi, e come Mike Cooper appunto, e come anche certe cose poi che addirittura andranno a finire quasi stranamente in una forma quasi impossibile, ma di fatto poi attuata anche dentro vagheggiamenti strani come ad esempio i Ground Dogs. Ecco, Mike Cooper appartiene probabilmente a quei bluesman inglesi che è sempre stato inquieto, sempre ha voluto sempre sperimentare, forse ha colto questa inquietudine delle musiche jazz e blues, e di conseguenza il suo linguaggio è sempre stato in mutazione fino ad arrivare ai nostri giorni, con un disco tra l'altro uscito qualche mese fa veramente notevole, dove si sente sì il jazz blues delle origini appunto di Mike Cooper, ma si sente anche quella vaghezza di quel suono sporco, rumorista si potrebbe dire, o rumoreggiante forse, visto che non era previsto, non era teorizzato il rumore in quanto tale, in quanto fenomeno musicale. E quindi Mike Cooper dentro questo splendido disco che è White Shadow in the South Seas sperimenta insomma in una maniera assolutamente libera, in questo senso è da sottolineare anche questa attitudine free, il suo insomma grande percorso legato al blues, quindi blues jazz, quindi come dire, non esiste poi una sorta di chiesa, di dogma insomma, come vorrebbero anche certi che il blues come altre musiche le intendono, lo stesso jazz e come fenomeno insomma che si stabilizza e poi crea appunto dei canoni, e da quei canoni non si deve uscire. Tutt'altro, il grande anziano, ma non anziano a questo punto, Mike Cooper ci insegna come appunto un'estrapolazione jazz possa diventare una musica anche piuttosto fresca e in alcuni casi anche innovativa, come ad esempio prende certi momenti lounge veramente diciamo sì, perlomeno originale, ma si potrebbe parlare proprio di innovazione anche. piuttosto ispirato Mike Cooper, conosciuto insomma da chi ama il blues, ma quello meno allineato, anzi quell'attitudine che anche del blues come musica, appunto, come dicevamo prima, inizio di trasmissione 451 dedicata a queste estrapolazioni jazz, musica che nasce come miscuglio di altre musiche, addirittura anche come musica di sopravvivenza, se pensiamo alle work song, insomma, perché insomma venissero cantate per sopravvivere, soprattutto sopravvivere all'immane fatica e insomma al sopruso e allo sfruttamento, insomma, diretto, non indiretto come quello che stiamo vivendo adesso, insomma, che questo è bello buono, insomma, visto che sì, è indiretto, quindi va bene. Sì, una sorta di potremmo dire di lavoratori schiavizzati, però dentro appunto questa paradossale e infinita, speriamo che non sia definitiva, così forse presa per il culo, anche detta come va detta, e d'altronde insomma poi le cose sembrerebbero anche andare bene in alcune parti, ma insomma lascio un po' come dire la felicità di semplici pensieri o di semplici insomma opzioni elettorali, quello che poi così viene visto insomma come prospettiva, ma poi bisognerebbe proprio parlare insomma se esiste effettivamente una prospettiva nel senso insomma comune, perlomeno quello che si è espresso insomma qualche giorno fa, oppure è così veramente tipo così il voto a questo punto di fede. Ma vabbè, a parte queste piccole divagazioni, permettetemele, insomma, via. E d'altronde insomma non siamo ancora arrivati alla Bulgaria, qualcuno potrebbe dire anche magari, ma non è quella Bulgaria, quindi scordatevi anche quella faccenda, un altro tipo di Bulgaria, anche qua siamo nel post, no? Come appunto nel canto di lavoro, nel canto di sopravvivenza del blues. Mike Cooper, che in White Shadow in The South Seas riesce ancora a sperimentare oltre i 70 anni, anche addirittura con questi così trattamenti naturali, questi suoni concreti della natura, come dire, una dialettica che si spinge insomma sempre a verso un oltre che è molto interessante, per appunto un personaggio che viene etichettato ancora dentro il British Blues Revival, soprattutto quella parola revival, quindi una riproposizione, in realtà insomma è tutt'altro il lavoro di Mike Cooper, e come d'altronde un lavoro anche piuttosto particolare quello di Colin Stetson, disco veramente eccezionale quello uscito nel 2013, New History Warfare, è arrivato al terzo volume, dischi seriamente belli, si potrebbe dire così, per un personaggio che estrapola dal jazz quel senso lirico legato anche a quella libertà di linguaggio, ma è proprio un lirismo estremo quello di Colin Stetson, che forse continua ancora quel viaggio dentro quel pop anche che ha attraversato, anche con formazioni che potremmo anche dire insospettabili per poi il lavoro che sentiremo, tipo Arcade Fire o TV on the Radio, ma poi dentro insomma le collaborazioni di Colin Stetson degli anni zero ci sono anche i Godspeed, ci sono LCD Sound System, per dire, i National, quindi veramente è molto variegato, come poi il suo grande amore è quello che più lo porta verso il mondo del jazz, dell'estrapolazione jazz, del saper cogliere appunto nel jazz questo lirismo Però un lirismo appunto estremo, potremmo dire col treniano, questo lirismo che si spinge appunto quasi in una sorta canto universale. E, in effetti in New History Warfare volume 3 ci sono dei momenti veramente intensi, appunto liricamente veramente molto, molto forti. Infatti andiamo a prenderci un brano di 15 minuti di Stetson, che comunque poi ha partecipato anche a lavori con Braxton, con Matt Gustafson, quindi c'è anche proprio viatico dentro il mondo che è considerato più jazzistico della musica creativa, della creative music, legata comunque al post free, se vogliamo, insomma, da Braxton in poi, da Art Ensemble di Chicago, eccetera. Appunto, continuando questa estrapolazione jazz dentro 451, andiamo a tuffarci, a immergerci dentro questo meraviglioso, a questo punto, scusate, insomma, l'altisonanza degli aggettivi, meraviglioso brano di Collie Stetson. Thank you. Thank you. Colin Stetson l'abbiamo ascoltato con ben due pezzi da New History Warfare, un disco che vive sia di estrapolazioni jazz in questo appunto lirismo veramente illuminato appunto da forse da ascolti coltraniani, ma anche da quel mondo veramente pluriforme, incredibilmente fantasioso e anche fantastico in alcuni momenti, di Arthur Russell, quel mondo pieno di echi, tanto per citare insomma un suo grande gioiello appunto musicale, World of Echo. E con gli Stetson riesce a unire quindi addirittura anche un cantato che magari ci può portare più in territori pop, ma sempre un pop molto tra virgolette chiaramente, e un linguaggio tanto lirico quanto può essere anche turbolento sempre nel suo lirismo, come abbiamo sentito nella seconda traccia tratto dallo splendido lavoro, e che collega anche Stetson con un modo insomma molto interessante di estrapolare appunto dal jazz e quell'inquietudine e quel essere comunque sempre in una sorta di movimento, un movimento che si fa anche emotivo dentro le musiche di Stetson. Se emotivo è la musica di Stetson, oltre che essere decisamente lirica così illuminata da anche questi echi e questi cantati così ieratici, e con PCA invece si va su un mondo più delirante, l'estrapolazione del jazz viene fatta ma su un tessuto, potremmo dire così, ma piuttosto lacerato come tessuto, e quello del lo-fi, quello di un suono sporcato, a volte anche sporchissimo, e un'attitudine free jazzistica che impatta con certo blues delle origini anche qua, e certo modo di intendere la materia sonora in una forma così art rock articolata, e seppur con un senso assurdo che li rende anche piuttosto insomma inclassificabili, in questo senso l'estrapolazione jazz che fanno Peaceway è veramente unica. Poi sentiremo anche tra l'altro personaggi che sono sodali rispetto a certe criminalità musicali con Peaceway, e ci andiamo a trovare Peaceway, questo progetto da Pestilence and Joy, quindi già il titolo è programmatico, capite? E se vedete poi le immagini di copertina siamo veramente all'assurdo, fa anche ridere questo mondo tra il comico grottesco e appunto il delirante di Peaceway, come d'altronde anche la loro musica, che non perde però appunto in quella complessità art rock e art in generale, insomma art noise forse potremmo dire. Ci andiamo appunto a trovare questo progetto assolutamente geniale nel suo fare e disfare ed estrapolare appunto il jazz. Yeah. I want to talk to you about the end of the world.